È On Broadway, la nostra sigla che riprende per il venerdì a teatro di Radio Città Fujiko attraverso il Breakfast Club. Abbiamo già parlato all'interno dell'ottava edizione di Agora, di una rassegna nella rassegna curata da Anna Amadori. Ne abbiamo dato una presentazione estesa. Gli appuntamenti, poi, come avevo anticipato, saranno ripresi all'interno della rubrica Casa al Sipario sui 103.1, cioè questa. Laboratorio di letture ed eventi, Don Lisandro. Uno sguardo su Manzoni che ne svela l'umanissima vita e segue il filo di un perfetto noir, I Promessi Sposi. Ed è proprio su questo che vogliamo portare la nostra conversazione con Luca Scarlini, che è qua in diretta telefonico con noi. Buongiorno Luca, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, grazie. Intanto l'orario non è certamente di una mattina che è appena iniziato, quindi io ringrazio ogni volta per essere disponibili al Breakfast Club per dare anticipazione. In questo caso a Sette Note in Nero, un racconto gotico dei Promessi Sposi. Allora, tanti sono i motivi, no? Dico un capolavoro quando è tutti i tempi, da diversi motivi di approfondimento. E addirittura parli di una ricezione sbagliata dei Promessi Sposi in alcuni tratti, che deve essere reinterpretato anche in una chiave gotica. Quali sono le prove, gli indizi che hanno fornito questa interpretazione di lettura, Luca? Beh, diciamo che naturalmente non sono io a aver stabilito questa chiave di lettura, c'è tutta una corrente sotterranea, un po', come dire, alternativa al fatto che I Promessi Sposi siano un libro di buoni sentimenti cattolici, di ispirazione buona per tutti quanti, che è il motivo per cui poi Croce e Gentile scelsero questo libro come manuale scolastico che tutti dovevano poter leggere, perché era, secondo i due, abbastanza comprensibile e portava una visione santa della vita. In realtà, come noto, Manzoni aveva intenti molto contraddittori nella propria idea del lavoro, che ebbe peraltro millanta riscritture, per cui se noi leggiamo la prima versione, Fermo e Lucia, che esce nel 1827, naturalmente la monaca di Monza, Geltrude, che nel reparto gotico è la più forte, ha uno spazio enorme, siamo a 7 capitoli contro 2, e in questi 7 capitoli si capisce che Manzoni aveva letto molto bene il romanzo nero inglese, Anne Radcliffe, Gregory Monk Lewis, il Monaco, che erano tutte opere nere, estreme, che rappresentavano pulsioni, sesso, desiderio, perversione, sempre su sfondo italiano, che per gli inglesi rappresentava tutto quello che c'era di più proibito e tentativo, tentatorio. E certo, e tra l'altro io dico sempre che nel mio non aver avuto percorsi didattico-accademici mi sono avvicinato in maniera totalmente spontanea ai Promessi Sposi. Molte volte quando si parla ehi Promessi Sposi, insomma, viene un pochettino preso, come hai descritto in precedenza, con una medicina che bisogna assumere, no? Mentre invece per chi ne ha avuto una lettura totalmente libera magari si rende conto più da vicino di questi aspetti che sono stati riportati in maniera sintetica in questa prima parte di conversazione. Lo spettacolo, comunque, Parco del Sapere, Biblioteca Comunale Natalia Ginzburg, in via Bondanello 39 a Castelmaggiore, sarà appunto per domani alle ore 21 e all'interno dell'ottava edizione di Agora, Sette Note in Nero, un racconto gotico dei Promessi Sposi, di e con Luca Scarlini qua con noi. E intanto ribadisco allora tale proposito, dopo aver dato una visione seppur sintetica ma esaustiva, il contenuto dello spettacolo come sarà strutturato, Luca? Dunque, sono sette note in nero, il titolo di un famoso film horror di Lucio Fulci, un grande maestro artigiano italiano, che racconta una storia horror in una villa vicino Siena in cui ci sono degli oscuri segreti a partire da sette note musicali. In questo caso le note sono quelle di una canzone famosa, Tainted Love, una canzone degli anni 60 portata al successo da Gloria Jones, che io uso in sette cover diverse fatte secondo gli stili più differenti, che introducono altrettanti nodi fondamentali della rappresentazione nera del reale in Manzoni. Quindi Geltrude, ma poi naturalmente Egidio, ma poi anche l'Innominato, ma poi anche la Peste, ma poi anche i Monatti, ma poi la Madre di Cecilia e poi naturalmente, come elemento gotico più di tutti, Lucia, anche perché Lucia, con tutta la sua bontà, porta una spiga micidiale a tutti quelli che tocca, e il povero Renzo ne è quasi distrutto. Per cui è come quel personaggio, gli X-Men, per cui frequenta i fumetti, Rogue, che ha il potere di togliere i poteri agli altri. E lei appena vede qualcuno lo smoscia. L'innominato era un criminale di lunga data, ha fatto crimini di ogni tipo, arriva lì, gli rompe talmente le scatole che a quel punto lui diventa buono, lascia perdere e si converte con il cardinal Federico Borromeo, diventando una dama di carità di San Vincenzo. Quindi dei superpoteri terrificanti. Stravolge completamente molti aspetti dei protagonisti in questo caso. Cioè, come fa, dove passa lei non cresce più l'erba. Sì, bisogna fare gli scongiuri per quanto riguarda. Assolutamente, ma infatti, come diceva una notazione molto cattiva di Alberto Albasino tanti anni fa, i famosi forchettoni che lei tiene in testa potrebbero essere né più né meno armi con cui trafigge tutte le persone con la sua bontà nefasta. Sì, sì, indubbiamente, e infatti anche questo è una specificità. Io nella mia lettura, ad esempio, ho trovato soprattutto nella parte finale, poiché è una, diciamo, come è stato riportato in precedenza, qualcosa che ti viene canonizzato, no? Però la parte finale, nella lettura che ho avuto, è anche una sorta di vita di coppia che non è poi così. Come posso dire, prima quando c'era la lontananza, il proibito, non sa da fare, così un conto, e poi dopo invece ci si rende conto che nella quotidianità, nella vita e nei percorsi, insomma, la fine non è esattamente il vissero tutti felici e contenti, ecco, mettiamola così. Ma, insomma, ci vuole la peste perché esatto. Lucia si conceda Renzo, ci vuole la morte di Fra Cristoforo, povero uomo che sta lì appestato al lazzaretto. E lei però nel frattempo, essendo anche sempre molto interessata, si è trovata una ricca vedova con cui convive, che ha perso tutti i familiari, si è fatta la peste insieme, sembra anche un po' un menage lesbo, e però soprattutto ha subito mirato ai soldi di lei. E anche questi sono tanti aspetti che vogliamo sottolineare. Perché lei naturalmente sempre pensa ai soldi, cioè una che pensa ai soldi. Insomma, è notorio che i grandi studiosi dei Promessi Sposi hanno detto, per essere l'opera di un romanziere cattolico, è anche molto curioso che nei Promessi Sposi non si preghi mai, c'è un'unica processione, quella in cui vengono esposte le reliquie di San Carlo Borromeo, che è solo un veicolo per diffondere la peste. È come se Manzoni dicesse che se si prega si diffonde la peste, se si prega in pubblico al di fuori della sfera privata. Sì, il messaggio è molto forte, ecco. Cioè. E poi Don Abbondio non è certo una buona pubblicità alla Chiesa, complice del potere, vigliacca, tutte queste robe qui. Ok, intanto già ne abbiamo dato un'anticipazione di contenuto e un'anticipazione di palcoscenico. Puoi restare in linea per un po' di musica, poi rientriamo e concludiamo questo motivo di incontro per Sette Note in Nero, che sarà domani, sabato 9 marzo 2024 alle ore 21, Biblioteca Comunale Natalia Ginzburg in via Bondanello 39 a Castelmaggiore. Ricordo che siamo all'interno dell'ottava edizione della stagione Agora. Ci possiamo sentire tra un paio di minuti, Luca? Sì, certo, a più tardi. dal disco Wave, dalla CTI Record, l'autore Antonio Carlos Jobim. Ho portato un po' di note raffinate, easy listening, anche a questo motivo di incontro in scena su Radio Città Fugico, Sette Note in Nero, un racconto gotico dei Promessi Sposi di e con Luca Scarlini. All'interno di Agora sarà a Castelmaggiore. Luca, ci sei? Sei ancora? Sì, sono qua, sono qua. Ottimo. Nonostante le tematiche un po' gotiche, così ho voluto portare un po' di easy listening nella colonna sonora, però concludiamo. Diciamo che ci andava meglio un po' di black metal. Sì, infatti, non sono competente in materia, purtroppo. Ma ti davo io una playlist, un po' di roba norvegese un po' esagerata. Quelli che cantano in questo modo. Sì, growling con Promessi Sposi ci sta bene, perché okay, è proprio una roba che è molto collegata. E infatti la prossima volta, se ci sarai, me lo auguro, avrò modo di consulto prima di mandare la playlist. Però in conclusione ho una sorpresa, se vogliamo, se riusciamo. Intanto allora, collaborazioni per quanto riguarda lo spettacolo, Luca? Beh, di fatto la questione di fondo è che è una produzione di Agora e è una richiesta che mi ha fatto Anna Maduri, che sta facendo un laboratorio assai lungo sui Promessi Sposi. Anna, con cui ho collaborato in varie occasioni nel corso degli anni, che sa che io ho spesso lavorato sui Promessi Sposi, che ho anche trasformato in varie occasioni in musical con i ragazzi delle scuole superiori. C'era questo progetto che si chiamava Adotta un classico, salvalo dai professori, che si faceva soprattutto nelle scuole superiori in Lombardia e in Toscana una quindicina, vent'anni fa, in cui il gioco era quello di capire quante persone in una classe avessero delle esperienze musicali, spesso tra intere band, e poi trasferire tutti i Promessi Sposi in un musical da produrre in due giorni ed andare in scena. Ok, beh, è una bella idea questa. È anche divertente, i ragazzi sì, adoravano, e dicevano molti che per la prima volta i Promessi Sposi avevano espresso un qualche interesse per loro. E vedi un po', guarda, questo oltretutto è un valore aggiunto per un capolavoro assoluto. L'appuntamento è a domani alle ore 21 per il Parco del Sapere, Biblioteca Comunale Natalia Ginsburg. Io ringrazio tantissimo Luca Scarlini per questa anticipazione che ha portato all'interno di Radio Città Fugico. Già avrà intuito le note di conclusione per questa nostra chiacchierata. Beh, per forza, direi che non c'è altro, e va solo detto che Natalia Ginsburg è molto azzeccata, perché ha scritto quel romanzo memorabile che è La famiglia Manzoni, che è il ritratto più bello e più duro di Manzoni, veramente un libro meraviglioso. E dopo questi consigli letterari che accogliamo da Luca Scarlini, scrittore, drammaturgo, narratore e quant'altro, che per raccontare questa passeggiata in Sette Note in Nero, è un appuntamento da non perdere all'interno di Agora. Grazie Luca e buona giornata. Grazie. A voi, arrivederci. Mark Almond, Soft Cell, l'interpretazione probabilmente più conosciuta tra le diverse cover di Tainted Love, brano soul da Gloria Jones. Ringrazio Luca Scarlini che tra l'altro ha ricordato che l'autrice è Gloria Jones, grande voce del soul. Disco postumo, Miles Davis al momento della sua scomparsa stava appunto studiando linguaggi hip hop. Sì, adesso non è, adesso faccio, sapete, io sono un convertito, si può dire, sapete che il convertito in tutti gli ambiti diventa poi più realista del re. Da autodidatta divento poi così più attento, più pignolo, e per i promessi sposi va benissimo, anzi meno male che ne viene data questa lettura e questa scoperta diversamente a quanto viene proposto in maniera canonica. Però non è che dobbiamo concentrarci solo sugli aspetti più pruriginosi e più gotici, è un capolavoro in senso assoluto, ecco. Siamo arrivati a conclusione per quanto riguarda la prima colazione in diretta, che tornerà lunedì puntuale, la rubrica I Magazine, la lettura delle prime pagine. Avremo un last minute anche in questo caso di anticipazione per un appuntamento che sarà mercoledì 13 marzo, quindi la colazione in diretta ritorna lunedì per l'inizio settimana. Ora ci godiamo un pochettino il weekend che ci attende già da questa sera, poi dopo aver proposto per quanto riguarda la realtà estense con Monio Vadia, l'assassinio nella cattedrale, e per quanto riguarda Agorà, le sette notte in nero, dalle 11.30 alle 12.30 il programma del Torrione all'interno di Jazz Live. Un grazie per l'attenzione, un buon ascolto sul 103.1 dal vostro William Piana, tra poco Edipeo Enciclopedico, Liberi Dentro, la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, alle 11.30 Jazz Live. Buon ascolto, buon venerdì, e per chi vuole rassegna stampa tra poco, e come ho detto il format e l'osservatorio sul jazz come di consueto e come ogni venerdì. Un caloroso abbraccio dal vostro William Piana, ciao a tutte, ciao a tutti.